Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità dal punto di vista di tutti gli animali, umani e no, con un'attenzione speciale per questi ultimi. È la puntata numero 572 e parleremo di selezione razziale, di libertà d'espressione, di adozioni, delle conseguenze di un certo tipo di alimentazione. Non mancherà la ricetta della settimana, scelta dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che stavolta cura anche le musiche. La colonna sonora sarà un omaggio a una stella che ci ha abbandonato giusto 5 anni fa, l'indimenticabile David Bowie. Heaven loves you. The clouds are for you. Nothing stands in your way when you're a boy. Clothes always fit you. Life is the poplar, the cherry when you're a boy. When you're a boy, you can wear a uniform. When you're a boy, other boys check you out. You get a girl to say your favorite thing. When you're a boy, boys, boys, boys keep swinging. Boys always love you out. Uncage the colors. Cominciamo con una notizia dello scorso 18 dicembre. In un appartamento di Grugliasco, in provincia di Torino, una donna di 74 anni viene sbranata e uccisa dai 5 cani della figlia. Gli animali, ci dicono le cronache, sono cani lupo cecoslovacchi, una razza considerata particolarmente aggressiva. Nei giorni successivi, su Corriere.it, la notizia è ripresa con un lungo articolo da Fabrizio Rondolino, giornalista, personaggio pubblico, che racconta la sua esperienza con un cane lupo cecoslovacco. Una razza, si dice già nel titolo, che non dovrebbe esistere. Rondolino, in verità, non commenta direttamente la notizia di Grugliasco, non potendo conoscere l'esatta dinamica dei fatti, ma svolge un discorso più generale e scrive così: «Il fatto è che il cane lupo cecoslovacco non dovrebbe proprio esistere. È un'invenzione dell'uomo, una delle peggiori nel campo delle razze canine. Negli anni 50 un colonnello cecoslovacco ebbe la brillante idea di far accoppiare una lupa dei Carpazi con 2 pastori tedeschi allo scopo di creare un cane più aggressivo e più feroce da dislocare lungo la cortina di ferro. L'esperimento, scrive ancora Rondolino, in gran parte fallì perché si scoprì che i nuovi cani lupo obbedivano soltanto all'addestratore e una volta trasferiti sul luogo di lavoro, un confine dove chi cercava di passare veniva normalmente assassinato senza troppi complimenti, si mostravano indocili e incontrollabili. Quindi l'idea di costringere un cane del genere alla vita a fianco delle persone, magari in un appartamento, è per Rondolino il problema. E infatti conclude così il suo articolo. Delle due l'una, o il cane diventa progressivamente sempre più stressato, aggressivo e dunque pericoloso, oppure è ridotto dall'addestramento e dalle misure di contenimento a una vita da prigioniero, proprio come un leone in un circo. L'unica cosa da fare, se davvero amassimo i cani e i lupi, sarebbe sterilizzare tutti gli esemplari in circolazione e rinunciare una volta per tutte alla pretesa assurda, presuntuosa e in definitiva criminale di mescolare artificialmente ciò che non può e dunque non deve essere mescolato. Questa riflessione è costata a Rondolino una sorta di aggressione sui social network, ma di questo non c'è da sorprendersi. Noi abbiamo chiesto un parere a Massimo Raviola, veterinario, autore del libro Che razza di bastardo e autore per noi di un ciclo di interventi disponibile sul nostro sito restiamoanimali.it. Ho letto con attenzione l'articolo di Fabrizio Rondolino sul Corriere riguardo alla terribile tragedia accaduta a Grugliasco vicino a Torino, dove un'anziana signora è stata aggredita ed uccisa dai 5 cani della figlia. E devo dire che non mi trova particolarmente d'accordo questo articolo, all'interno del quale si parla praticamente sempre solo di lupi cecoslovacchi. Io preferisco parlare di cani e basta. E ora mi spiego. Se non ci fosse stata questa enorme tragedia della perdita di una vita umana, il problema non sarebbe mai venuto all'onore della cronaca, ma sarebbe comunque sempre presente. Ed è un enorme problema di maltrattamento animale, e parlo di un maltrattamento molto subdolo, spesso misconosciuto, anzi autorizzato per legge. Parlo del maltrattamento genetico, della selezione di razza. È per questo che io preferisco parlare di cani e non di lupi cecoslovacchi, come nel caso in questione, o di Rottweiler, o di Labrador, o di qualunque altro nome che abbiamo dato ai nostri animali. L'articolo, per quanto ben scritto, parte dall'ottusa accettazione dell'esistenza delle razze canine come un dato di fatto ineluttabile, ma non è così. Le razze in natura non esistono, le abbiamo inventate noi, un'invenzione tremendamente deleteria. Dobbiamo cominciare a provare a fare un salto di coscienza, ad accettare che la selezione delle razze come le conosciamo noi è un artificio del tutto umano, dettato ormai quasi esclusivamente dall'ego umano che di volta in volta vuole il cane da borsetta, il cane da giardino, il cane da esibire o il cane super aggressivo. La scienza e nello specifico la genetica ci hanno ormai chiaramente spiegato che questa selezione di razza, che in altro non è che la famigerata eugenetica, non può che portare problemi sempre più gravi sia all'animale che a noi umani, come abbiamo appunto visto. È di fatto un gravissimo impoverimento genetico che ha come sicura conseguenza l'esaltazione di tare genetiche e gravi patologie ereditarie, praticamente sempre, sia fisiche che psichiche. Non sono quindi d'accordo con il concetto che bisognerebbe vietare questa particolare razza, solo perché può dare problemi a noi umani egoisti, come abbiamo visto in questa enorme tragedia, ma bisognerebbe instradarsi verso un drastico cambio, o meglio, crescita culturale che accetti definitivamente che la selezione razziale e quindi la creazione e il mantenimento delle razze è deleterio sempre. In alcuni casi per noi umani, esaltando caratteri di aggressività in certe razze, in altri, molto più spesso, quasi esclusivamente per i cani stessi, imponendogli sicure tare ereditarie portatrici di gravi patologie croniche, e tutto solo per il nostro misero piacere. È inutile quindi pensare di vietare l'uno o l'altra razza. Finché sarà accettato e sdoganato il razzismo nei confronti degli animali, vietata una razza pericolosa, nel mondo qualcuno starà già sicuramente selezionandone un'altra. Buona giornata a tutti. It's a god awful small affair for the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat where the clearest view. And she's hooked to a silver screen, but the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those kids. Siamo ormai alla metà del mese, ma non è tardi per partecipare a Veganuary, l'iniziativa internazionale che si propone di spingere le persone a mangiare meno carne. Veganuary, nome che nasce dall'unione delle parole vegan e January, gennaio, invita a provare a mangiare vegetale per un mese. Chi si iscrive al sito veganuary.it riceve per tutto gennaio un'email giornaliera di supporto con indicazioni di ogni tipo, come fare la spesa, ricette semplici, consigli pratici, informazioni nutrizionali. L'iniziativa su scala globale è stata pubblicizzata e lanciata da molti personaggi famosi, come l'ex Beatle Paul McCartney, la top model Lily Cole, il chitarrista degli Smiths John Mayer, l'etologa Jane Goodall. Il partner ufficiale del progetto è per l'Italia Essere Animali, che ricorda le cifre dell'impatto ambientale dei consumi di carne. L'allevamento è responsabile di circa il 14% di tutte le emissioni di gas serra generate dall'essere umano. Inoltre, gli allevamenti hanno già prodotto l'influenza suina e l'influenza aviaria, epidemia quest'ultima con un tasso di mortalità del 60%. E ancora, negli ultimi anni, oltre l'80% della deforestazione in Brasile, principalmente in Amazzonia, è stata destinata al pascolo di animali d'allevamento. Insomma, smettere di consumare carne e altri prodotti di derivazione animale, oltre che giusto nei confronti degli altri esseri viventi, è anche necessario per dare un contributo significativo al rallentamento del riscaldamento globale del pianeta e alla diffusione delle epidemie. Questo è il messaggio di Veganuary. Control to Major Tom, you've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today, for here am I sitting in a tin can, far of the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Un contributo alla riduzione dell'impatto ambientale non arriva invece dagli allevamenti detti biologici, che non sono più ecosostenibili di quelli tradizionali. Lo sostiene uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, condotto dagli esperti della Commissione Intergovernativa sui Cambiamenti Climatici e dell'Università di Monaco di Baviera. Abbiamo valutato le emissioni di gas a serra, ha spiegato Maximilian Pieper dell'Università di Monaco, quando si tratta di capi di bestiame. E le cause di inquinamento sono molteplici, variano dalla lavorazione del cibo che gli animali consumano, al metano prodotto dagli animali, fino al gas emesso dalla decomposizione dei loro rifiuti. Stando ai risultati del gruppo di ricerca, le emissioni di bestiame allevato in aziende biologiche sono in parte inferiori perché la lavorazione dei mangimi non prevede l'utilizzo massiccio di fertilizzanti, ma gli animali, d'altra parte, sono solitamente più piccoli rispetto ai capi di allevamento tradizionale, per cui è necessario ampliare il numero di animali per arrivare a una parità di produzione di carne, il che compensa i vantaggi iniziali. In sostanza, commenta il portavoce dei ricercatori, le emissioni complessive sono sostanzialmente le stesse. Sempre a proposito di allevamenti, impatto ambientale e alimentazione, si torna a parlare di insetti. L'Unione Europea ha infatti compiuto il primo passo verso l'uso degli insetti in cucina. È stato da poco pubblicato il primo parere favorevole dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, che ha permesso l'uso del verme giallo essiccato, tecnicamente la larva tenebrio molitoria, insomma la larva della farina, come novel food, quindi una nuova generazione di cibi. La farina di questo insetto, o l'intera larva, potrà essere usata nella preparazione di biscotti, di pasta, di barrette. Si tratta del primo sì dei tecnici dell'Agenzia sull'uso alimentare di un insetto dal 2018, quando una nuova procedura di autorizzazione dei prodotti è stata stabilita a livello europeo. Dopo questo via libera potrà essere formulata una proposta formale di autorizzazione da parte della Commissione europea, mentre l'eventuale immissione sul mercato dei prodotti dovrà poi essere votata dai Paesi membri. Questa prima valutazione del rischio di un insetto come nuovo alimento da parte dell'EFSA, ha detto l'esperto scientifico di questa organizzazione, Ermolaus Ververis, può aprire la strada alla prima approvazione a livello europeo. Dall'entrata in vigore del nuovo regolamento nel 2018, ha detto ancora, abbiamo registrato un forte aumento delle richieste di valutazione. Credo che questo via libera sulla sicurezza degli insetti e dei prodotti da essa derivati, in quanto nuovi alimenti, rappresenti un importante contributo all'innovazione in questo settore. Così Ververis. L'uso degli insetti nell'alimentazione ha soprattutto finalità ecologiche. Si ritiene che possano diventare una fonte di proteine sostitutiva di alimenti tradizionali, come la carne ovviamente e gli altri derivati. Per quanto ci riguarda, naturalmente, continuiamo a sostenere l'opportunità o meglio la necessità di un'alimentazione su base esclusivamente vegetale. Un'alimentazione che, come sappiamo, può essere sana, nutriente, fantasiosa, piena di piacevoli sorprese per il palato. Sempre a proposito di cibo, il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni ogni settimana ci delizia con una ricetta che prende spunto da uno dei temi trattati nella puntata. Stavolta gli abbiamo chiesto di dedicare un piatto a Flavio Insinna, il conduttore del popolare programma televisivo di Rai 1 L'Eredità. Insinna è arrivato alle cronache perché durante una puntata, alla fine del 2020, ha detto un'ovvietà, e cioè la caccia non è uno sport, ma tanto è bastato per scatenare l'ira di molti cacciatori e in particolare di Federcaccia, che ha spedito una risentita lettera ai vertici della Rai per lamentarsi, sostenendo che Insinna avrebbe fatto commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell'attività venatoria e dei suoi praticanti. Federcaccia ha chiesto addirittura l'allontanamento del presentatore e annunciato un boicottaggio della trasmissione e dei suoi inserzionisti pubblicitari. Una reazione davvero sopra le righe. Insinna, ad ogni buon conto, ha ricevuto la solidarietà di innumerevoli persone e delle maggiori organizzazioni ambientaliste e animaliste, come LAV, Greenpeace, WWF, Lega Ambiente, Animal Law, LAC, LIPU. L'Ente Nazionale Protezione Animali, ENPA, in un comunicato, nell'esprimere piena solidarietà al conduttore, ha fatto notare che Insinna ha espresso un pensiero condiviso dalla maggior parte degli italiani già da molto tempo, come rilevato dall'Eurispes nel rapporto Italia 2016, con il 68,5% della popolazione contrario all'attività venatoria. Ma sentiamo la ricetta di Gabriele Palloni, che è autore, vi ricordiamo, di un libro da poco uscito, Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. In omaggio a Flavio Insinna e ringraziandolo per la sua posizione contro la caccia, oggi vi racconto un piatto tradizionale campano che è stato protagonista di una delle domande del quotidiano quiz televisivo di cui Insinna è presentatore. Patane e cicci, pesto di patate e fagioli. Gli ingredienti per 4 persone sono 100 g di fagioli cannellini, 2 kg di patate, una cipolla, uno spicchio di aglio, 2 cucchiai di paprika dolce, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Sciacquate i fagioli e lasciateli in ammollo in abbondante acqua fresca per una notte. Successivamente scolateli e fateli lessare a fuoco lento fino a quando saranno cotti e la loro buccia risulterà morbida. Nel frattempo sbucciate le patate e tagliatele a rondelle di mezzo centimetro. a parte sbucciate e affettate la cipolla, quindi fatela scottare in una casseruola capiente con mezzo bicchiere di acqua o brodo vegetale e quando questo sarà asciugato aggiungete 3 cucchiai di olio extravergine e l'aglio tritato finemente, quindi lasciate rosolare. Unite la paprika e le patate a rondelle, coprite con il brodo di cottura dei fagioli e aggiustate di sale e pepe. Dopo 15 minuti unite i fagioli e lasciate ritirare tutto il liquido a fuoco lento. Una volta ben asciutto togliete dal fuoco e con un passatutto o un frullatore ad immersione ottenete una crema. In caso risultasse troppo morbido lasciate ritirare ancora qualche minuto sul fuoco. L'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus è ancora in pieno svolgimento. È passato quasi un anno dei primi casi clinici e molte cose sono cambiate nelle nostre relazioni, sia fra persone umane sia verso gli animali. Sembra che una delle conseguenze sia un aumento delle adozioni dei cosiddetti animali da compagnia, cioè cani e gatti. Non ci sono cifre attendibili, non ci sono cifre esaustive, non ci sono cifre esaustive a confermare queste. Lo sostiene fra gli altri l'Ente Protezione Animali, EMPA, che nella sua esperienza ha trovato casa nel 2020 a 8.100 cani e 9.500 gatti, oltre il 15% in più rispetto al 2019, per un totale di 17.600 animali domestici sistemati in famiglia. Questa evidenza, ha commentato Carla Rocchi, presidente nazionale dell'EMPA, è un piccolo miracolo di questa pandemia. Un miracolo che ha visto protagonisti gli animali presenti nelle nostre case, che con il loro affetto e amore incondizionato ci hanno aiutato in questo momento difficile. In alcune città le percentuali di animali che hanno trovato una nuova casa grazie all'EMPA sono arrivate a toccare una crescita del 20 o del 40%. È il caso di Treviso, di Perugia e anche di Monza, dove il rifugio EMPA è rimasto a dicembre addirittura privo di cani da adottare. Un sogno per tutti i canini italiani. E buone notizie arrivano anche in zone del sud Italia dove il randagismo è endemico e dove le adozioni, anche lì, sono aumentate. Vedremo se questa tendenza sarà confermata nei prossimi mesi e anni, con o senza Covid. There's a storm man waiting in the sky. He'd like to come and meet us. But he thinks he'll blow our minds. There's a star man waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worth. Per questa settimana è tutto. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Anna Granata, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e Lorenzo Guadagnucci che vi parla. L'appuntamento è per la prossima settimana, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.